Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio! Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado. Ed è un buongiorno a tutte e tutti. Veniamo a questa prima intervista dei nostri approfondimenti di Grigliottosa, dedicati alla Basilicata, in parte anche alla Puglia e in generale alle aziende di nuovi contadini e contadine nel sud d'Italia. Partiamo con Giorgio Ferrarese di Rocchetta Sant'Antonio, che ci racconterà come conduce, ecco, la sua scelta sul suo territorio. Auguro a tutte e tutti un buon ascolto. Yeah. 33 anni, cresciuto a Roma, a Londra, in Inghilterra. Sono, diciamo, un architetto mancato, perché mi sono quasi laureato, ho finito gli esami in architettura e non sono arrivato a fare l'abilitazione. No, nemmeno l'abilitazione. Vabbè, comunque ho avuto una vita molto complessa fino alla soglia, insomma, dei 30 anni a Roma, con diversi problemi sia personali che professionali. Vengo qui a Rocchetta dopo aver perso il lavoro in un'agenzia turistica a Roma. Organizzavamo eventi e tour per la città, anche di architettura informale, quindi ero sempre comunque molto interessato e appassionato al paesaggio. Sì, voglio andare prima nell'Oliveto? Sì. Prima nell'Oliveto. Sì. L'azienda dove si trova? Allora, l'azienda si trova a Rocchetta Sant'Antonio. Sono circa 20 ettari, di cui 6 bosco, 4 a oliveto, e il resto, ci sono anche 2 ettari con i pannelli fotovoltaici, e il resto sono circa 10 a seminativo. Adesso proprio ultimamente sto cercando di rimettere in ordine tutte le carte, e abbiamo fatto io di nuovo i frazionamenti proprio sui pannelli, per avere tutte le carte in regola, ecco, per chiudere anche, diciamo, una vicenda molto tormentata, familiare. Quindi sono molto felice, ecco, di avere quasi tutto pronto per incominciare a partecipare a bandi più sostanziosi, diciamo, di recupero e rigenerazione di questo pezzo di terra. L'altezza dove si trova? A circa 400-500 metri, 450. È un clima molto umido, perché essendo circondati dal bosco si riesce molto a trattenere l'umidità, ed è anche un fondovalle, come ti dicevo. Qui ci sono 4 pozzi costruiti in diverse epoche, ma venivano costruiti per necessità, perché qui l'acqua, essendo questo fondovalle non perfettamente proprio ripido, c'è molta ritenzione, quindi ristagna, e si deve fare per necessità un pozzo per drenare il terreno. E sono 4. E quindi avere anche in questo caso riserva di acqua per l'estate. Esattamente, questo è un privilegio, una fortuna che il sto terreno... scoprendo ora negli anni quanto vale, che i pozzi sono sempre pieni. Anche quest'estate, con la siccità che ha fatto, il pozzo si riempiva in una settimana, cioè lo svuotavo in una settimana, era di nuovo pieno, come se d'estate. Il terreno com'è? Prettamente argilloso? Argilloso, sabbioso, molto molto sabbioso. Cioè, questa è una terra che qui chiamano tufegna, perché sembra tufo, si compatta, ma allo stesso tempo sembra roccia, ma in realtà è molto friabile. Non è tenace. No, no. Infatti, come vedi qua nell'oliveto, ci sono queste macchie, appunto, di questo tipologia di terreno, che dilava facilmente, e quindi con una pendenza del genere e delle arature fatte male, la terra viene giù. E questi olivi io li sto recuperando piano piano, sono 4 anni che non li tocco, e ora stanno ricominciando a cacciare di nuovo un po' di verde. Il prossimo anno penso e programmo, cioè vorrei fare la prima potatura di riforma e sperare in una produzione. Ma circa la metà degli olivi, che sono circa in tutto 400, non sono produttivi, cioè li sto piano piano cercando di recuperare. Che varietà sono? Per lo più coratina, volutamente coratina, ma anche lì non si aveva coscienza. Questi sono stati piantati, cioè ce ne sono alcuni più, ce ne sono secolari, ma gli altri sono stati piantati più o meno negli anni 70, da quanto ho capito, senza ovviamente sapere di concetti di biodiversità. Quindi conoscevano l'impollinazione dell'olivo, anche se appunto in questi tempi si sta bypassando questa cosa, ma hanno messo troppa coratina rispetto alle altre varietà, e nel tempo si è ammalata. Io sto scoprendo tutti questi criticità, questi difetti, insomma, che ho riscontrato negli anni, ma adesso il mio metodo è quello dell'osservazione, ancora quello della registrazione degli eventi, e quindi di non cercare di fare danni. Quindi aspetta, l'azienda è un'azienda di famiglia? E al momento, cioè, era di famiglia, al momento sono solo io che la sto gestendo. Però comunque deriva dalla famiglia, nonni, dai genitori, che erano di originari qui di... Esattamente, mio nonno vive di Rocchetta. Qui. Ma essendo una maledetta famiglia medio-alto borghese, fu una delle prime generazioni che abbandonò questi luoghi. La fortuna si faceva a Roma, erano desiderosi di fare tutti gli avvocati, i dottori, cioè soltanto mio nonno aveva comunque l'interesse e la passione specialmente degli olivi e dell'olivicoltura, ma non è riuscita nemmeno a trasmetterla definitivamente ai figli, quindi fu il definitivo passaggio tra il lavoro sul campo, in campo, e l'imprenditoria agricola, che sono, come puoi capire, due mondi anche, insomma, che devono collimare, ma sono ben distinti. Tu nasci alla Spezia, sì, ti muovi poi a Roma. No, la Spezia è stata proprio una toccata. Cioè sei nato in viaggio? Praticamente sì, cioè, no, mio nonno, mio padre è ufficiale di Marina, quindi viaggiato il mondo. No, vabbè, diciamo che ho avuto la predisposizione comunque a cambiare ambiente e ad adattarmi molto velocemente, sia dal punto di vista sociale, appunto, ma anche proprio fisico. Io sto qui principalmente all'inizio perché riconosco quanto sia più benefico per il mio corpo stare qui rispetto che a un quartiere di Roma. Sì, in qualsiasi quartiere di Roma. Ho vissuto i primi anni di vita, ho fatto l'asilo e il primo anno di elementare a Londra, avevo la percezione della megalomania. E di Susa io sotto te, tu pure che essere mocca da quella bocca doce, doce, figlio pure con me, doce, l'amore vince il fuoco, la matrizza passa il fuoco, resta lì, la massadina, che se capa con il suo cosce, l'amore vince il fuoco, la danna da che fa da che scassa, le cante d'odia, la grande tribù, buio, carovana che va dalle ciaffoggia, gente poetica come una fiaba, esplosiva come una tamor, grande tribù, buio, carovana che va dalle ciaffoggia, gente poetica come una fiaba, esplosiva come una tamor. E c'è chi parla, c'è chi suona, la musica antica, la musica nuova, e chi la persona sta a me saggente, e chi la campana non serve a niente. E Gesù sei io sotto te, tu cuore che è stata mocca, da quella bocca doce, doce, figlio pure un momento voce. L'amore mi c'è volo, lo cavatuzza, passa fuori, e se da rida, ma se arriva, senza cavatuzza, coscina. Grande tribù, cui carovana che va dalle ciaffoggie, da Pricena, grande tribù, e dal Salento, grande tribù, da Manfredonia, grande tribù, a Galatina, grande tribù, cui grande tribù, cui carovana che va dalle ciaffoggie. Grande tribù, buia, chi succede in un giardino di stelle, e in un giardino rosso che sta a terra, chi trova la più bella sera di. Grande tribù, buia, chi succede in un giardino di stelle, e in un giardino rosso che sta a terra, chi trova la più bella sera di. È la taranta della leggenda, che nella leggenda non ci vuole più stare, vuole uscire fuori al di là del mare per pizzicare tutta la gente. Grande tribù, Puglia, carovana che va dalle ciaffoggie. Grande tribù, Puglia! Da quanto tempo sei ritornato a Rocchetta Sant'Antonio? Allora, c'è stata una prima fase un po' transitoria in cui io comunque accettavo lavori in cantiere anche fuori. Insomma, nel 2020 ho perso il lavoro. Ho ricominciato nel 2021-2022, diciamo che dal 2022 sono in pianta stabile qui. Però gestisco l'azienda già dal 2020, abbiamo deciso di rilevare l'azienda dal fratello di mia madre in quell'anno lì. Quindi hai una partita IVA sull'azienda? Sì, sì. O sì, in sì. costruzione, no, c'è no, la partita no. IVA? Sì, purtroppo il primo insediamento l'ho mancato, non ci avevano, io ero proprio inconsapevole di tantissime cose, di tutto, qualsiasi, tutto il campo inerente all'agricoltura, ero cioè proprio completamente inesperto. Comunque vedi, queste sono le io questi invece li ho potati, li ho potati io. Qui è la zona un po' più fertile dell'uliveto, vedo. Sì e no, perché comunque è una terra con zero materia organica, zero, proprio sì. Siamo ai minimi. Ed è importante dire che era una terra, cioè è stata molto molto sfruttata, cioè viziata, si dice, sì. Cioè concimata chimicamente, arata. Fino agli anni 70 c'erano 6 ettari di vigna, era tutto vigna a pergolato. Con la rivoluzione verde, appunto, di quegli anni là, fu spiantato tutto. E c'è un fatto importante invece che ora va sul campo invece un po' più dello animico, spirituale, che lavorava un vignaiolo con tutta la sua famiglia qui. E abitava nella casa. Abitava in quella casina, sì. E quando scoprì appunto di aver perso il lavoro e di dover abbandonare la casa, appiccò fuoco alla casa. E dato che quei portoni antichi sono insomma con l'anima di legno fuori di metallo, con la benzina scoppiò uno di questi portoni e colpì il povero Giuseppe Vignaiolo e morì. Quindi si ipotizza un suicidio, ma che dice? Bella. Vedi quanto è chiara, cioè è sabbia. Sì, sì, è tufo. Anche le pietre, i massi che ci stanno per lo più è di origine c'è un po' di tufe. C'è un po' di carsico, di sì, sì. Molto rara, ma cioè oddio, rara. Quelle rocce lì che escono sono sì. I carsici. Questo era uno degli scamparuli, diciamo. Anche se avendo questa struttura qua un po' particolare, che non ti ho, ci stiamo accavallando troppe cose, io non, scusami. Vai, non ti preoccupare. Non ti ho detto che quella collina là, quella proprio di fronte vicina, la vedi? Questa sì. Qua? E in cima a quella collina c'è il santuario di Santo Stefano. In cima a quella invece è quest'altra sopra vicino alla pala eolica, hai visto? C'è il santuario dell'Annunziata. Cioè era un'area comunque con qualche vocazione mistica, religiosa. C'è anche un altro indizio che lo dice, insomma, dopo ti faccio vedere. Quindi io ipotizzo anche che questa fosse, vedi com'è la pianta, questa sì. Navata. C'è una crociera a quattro. Crociera con le nicchie. Disposta, vedi che poi c'era un'arcata inferiore, quindi vuol dire che ci può essere un impianto ancora più sotto. Sì, inferiore. Quindi poteva essere un ex edificio religioso rimesso a... come abitazione. Riutilizzato, esatto. Invece com'è che l'hai chiamato questa struttura? Scamparulo. E cosa sono? Scamparuli sono i rifugi dei lavoratori che popolavano quest'area, perché come ripeto era molto molto attraversata, cioè una bretella dell'Erculea, diciamo una complementare, si chiamano, una strada molto antica che unisce questi due santuari. Tutti avevano un pezzettino di orto, di frutteto, di vigna, era molto frammentata ma ben governata come area fino a più o meno a questo confine, perché poi il resto appena sotto questa collina c'è il tavoliere, cioè si scende che si veda, esatto. My truck is just a can, that's the one you wanna. Never disappoint my symbol, una. Quando vuole questa terra mi senti, ma domo troppo non è stato duro, non dire la gallina. My truck is just a can, that's the one you wanna. Never disappoint my symbol, una. Quando vuole questa terra mi senti, ma domo troppo non è stato duro, non dire la gallina. La Puglia ti imbroglia, ti imbruglia più di Natali. Sparfuglia la folla se torni fai nelle zì. Senza pari fino a Bari, con rari e vari rimari, cari quanto un safari, ma poi ti senza salari. Contrario ad ogni gesto di rama, caso un brutto vento tira la tribù, prima lo ammira, poi lo stira, se non mira, mira in alto più di un vaso, pompone pezzi di un vaso, più da un caso col naso, mentre gli altri la cercaso. Fattusa, crilusa, cussa, gira l'usa, salso mele, quando canta mate, canta patan, tremenda balle malen. Dove sta ponendo ste semi-independence? Mi repenica quando voglia domani. A mamma no no, a mi mio no no. Questo di un tempo, loco rotonda in fondo. Mastico con gusto, tutto ciò che è nostro. Ma ciò che c'è da chiamare, sti guagnuna. Levo di tutto, ma si mbacuna. Guagnuna di sta terra, mi senti. Ma do microfono, non è stato due bambini e una gallina. Scelta chianda sti guagnuna. Nego di support ma si mbacuna. Guagnuna di sta terra mi senti. Ma do microfono, non è stato due bambini e una gallina. Puglia, radio, clac, piace tutto qua. Quanti mandi stile, give you someone. Vieni più forte, so che tengo in the sun. Come un lato blu che mi ha dato mancia di big mancia di fast mancia di sin mancia di cheese mancia di mon fra feina. Come perché do non vedi nessuna che targa il nud vicino di induna. Sengo che anche la terra si in de stama seria, hey. Sengo che anche du mar anzima che è sa terra, oh. Puglia tra i stati quasi in mon mo dici dialo se ci sono dici dialo mi era che pop e are you ready or no? È come un gol di Cassano e ti provo a show. Ma ciò che c'è da chianda sti guagnuna. Levo di tritort ma si mbacuna. Guagnuna di sta terra mi senti. Ma da un microfono è stato due bambini e una gallina. Guardano in fondo il mondo e praticano musica. La mi sta bosch che la Puglia trai. Ah, da bosch la mi se ne mamu cuprisce due disce. Se ciò che ne corre cap che la trap su sa stampa. Ci alza la mano ci e se ci trassa. Ehi come se fascia la Puglia trap se senda tutto la val. Ehi team da domani che le guagnuna da nam ci da ci vanno stone e ci stone a dovon. Cenga che anche la terra si in the stama seria, hey. Sengo che anche du mare anzima che è sa terra, oh. C'è Bucarest e Budapest, mo sto guagno nel tardo nostro all'est. Frigia e mangia stile gutta, scarpa peste l'est. Chiude Ernest, mest, come a Frank. C'è so che a e c'è vedo mannana. A me in basta roba, ma di a forza di cennanza. Chiusi in una stanza, one. Satisfaction on a stone, la garoli stone. Asciuga ping pong, una tiptong, su sana strumentale. Scazzi che ne rimarchi pa' mina. Non lo sente, non lo vide. Ma per te me che catraminta, buina almeno a tua cammina. Ma ciò che c'è da chiamare sti guagnuna. Levo di tre frut ma si mbacuna. Guagnuna di sta terra mi senti. Ma do microfono è stato due bambini e una gallina. Ma ciò che c'è da chiamare sti guagnuna. Levo di tre frut ma si mbacuna. Guagnuna di sta terra mi senti. Ma do microfono è stato due bambini e una gallina. Comunque quest'area è quella meno antropizzata rispetto a tutta la zona, quindi c'è il bosco che è rimasto, diciamo così, intatto. Sì. Antropizzata ma anche vissuta, cioè anticamente. Allora, aspetta, l'elemento che ti ha portato qui, sì, fatti personale, il Covid, no, il lavoro, la città e quindi il rifiuto di questi assembramenti umani rispetto al territorio vuoto. Sì, guarda, forse qui. La scelta... Volendogli dare una definizione razionale, è chiaro che poi no, c'è qualcosa nell'intimo che è sempre difficile da, sì, okay, da razionalizzare. Forse veramente la cosa più razionale è un banalissimo amor proprio. Cioè, il desiderio di voler star bene o meglio di quanto stavo prima. E poi anche il riconoscimento del privilegio che ho, il senso di responsabilità. Sono mesi che sento, si è invertito la tendenza, il processo quello di fuga, come ti dicevo. E mi sembra di fuggire, se ora vado via da qui è perché fuggo da qui, dalla responsabilità di qui. Ora scusami, è troppo retorico. Ecco, liberarsi delle aspettative. Io qui non ho, mi sto liberando del senso di dover far carriera, di avere uno stipendio rispettabile, di concedermi dei lussi, dei vizi, tutti i desideri di cui adesso mi sto liberando. Cioè, adesso forse la ragione più viva che sento. E poi anche quello di donarmi, quindi, non soltanto ovviamente alla terra e a una produzione agricola, ma ci tengo allo stesso modo a quello del paesaggio sociale, quello di comunque coltivare dei rapporti sani in questi contesti, anche quella è diciamo, una mia missione. E quindi invece nell'ambito del paesaggio sociale che cosa cambia? Che cosa è cambiato rispetto a quello metropolitano? Non credo che l'impegno sociale, no, in città sia diverso, o meglio, sia meno impegnativo rispetto a quello. Beh, diciamo che si riscoprono, si abbattono certi muri, per necessità si va in contatto con... ecco, diciamo che paradossalmente c'è più biodiversità, ci si è abituati a frequentare e conoscere la propria bolla, di frequentare la propria bolla di sociale, di frequentazioni in città, mentre qui con un caffè al bar puoi scambiare una chiacchiera anche con l'ultimo dei... del paese. Sì, quello che di cui sento forte la missione è quella di creare ponte, cioè avendo avuto anche qui il privilegio di apprezzare sia l'una che l'altra, diciamo, condizione sociale, vi voglio proporre come ponte tra l'uno e l'altro. Non... l'importante è che avvenga lo scambio tra questi due mondi. Non so, se ne parla molto, ecco, cioè, appena ora, ultimamente, diciamo, il film generalmente viene riconosciuto come quello che ha raccontato meglio le aree interne e che ha avuto un po' più di successo, è quello di Virginia Raffaele e Antonio Albanese, che lo chiama Un altro mondo. È presente, no? Sì, e no, è girato una in Abruzzo. Commedia banalissima. Girato in Abruzzo. Sì, però insomma ha avuto successo e... però lo definisce un altro mondo, cioè invece effettivamente fa parte, è origine del mondo, solo stiamo osservando qua l'origine del mondo e quindi è semplicemente un percorso, non sono insiemi distinti, anche perché poi i desideri, le passioni dei ragazzi di qua sono tendenzialmente le stesse di quelli della città, essendo in una, insomma, condizione globalizzata, molto semplice. Solo che qui ci sono meno opportunità, hai meno possibilità di entrare in contatto con quella vera, con il raggiungimento, ecco, di quel desiderio. La produzione che fai qui, quindi per il momento un po' di olio. Oh, ecco, quest'anno è stato un po' particolare, non so, quest'anno ho proposto una raccolta sociale. Con la siccità che c'è stata, nonostante ci sia l'acqua, non sono riuscito a fornirgliela, perché comunque servono mezzi, strumenti e conoscenze. Quindi... erano poche olive e ho proposto una raccolta partecipata, cioè con la produzione un po' suddivisa con quelli che sono venuti, amici e parenti, non ho esteso molto l'invito, solo poi negli ultimi giorni ha suscitato la curiosità dei paesani, anche un po' di questo progetto sociale, hanno voluto poi riportarla in questi articoli, ma il racconto è stato un po', ecco, romanzato. Ok, il progetto sociale invece quale? No, perché appunto riconosco che in questo periodo, io comunque qui da solo non vado tanto lontano, per questo ultimo periodo proprio mi sono riuscito un po' a rendere sul fatto che da solo non ci riesco. L'ho tenuta molto gelosamente tutto questo ben di Dio, chiamiamolo. Sì, sì. Quindi ritornando alla produzione, quindi hai fatto quindi quest'anno questa raccolta sociale con amici, parenti e così via, che produzioni di... Non, cioè meglio delle aspettative in realtà, però avendolo fatto molto amatorialmente non ho fatto... Un calcolo di quello che si produce? No, sì, abbiamo fatto un 30%, 40% in meno dei soliti anni. Comunque non produzioni industriali, certo. Diciamo, il massimo a cui sono arrivato è, ho sfiorato i 5 quintali d'olio, ma un anno particolare e ci abbiamo messo una settimana con professionisti, l'ho pagato fior fior di soldi. E invece i seminativi adesso li vedo un po' tutti, sono ancora incolti. No, questo è un discorso, cioè io personalmente ho deciso di abbandonare, diciamo, ho iniziato a fare quello che... che convenzionalmente quindi dedicarti alla casa, alle olive. Sì, poi diciamo che la scelta è stata anche determinata anche da questo, ma io per quest'anno, cioè l'anno scorso ho fatto mellifere spontanee, mm-hmm. E ho comunque un po' di soldini, cioè, li ho presi e ho monitorato tutte le aree. Adesso è molto facilmente riconoscibile dove le chiazze di argilla, di argille, le tipologie di terreno, cioè... Adesso sono molto più consapevole di cosa fare, dove e come fare le cose. ma mi ritrovo adesso quest'anno che forse non sono ancora, ovviamente non avevo un progettino di Food Forest, ma non ho, diciamo, i tempi e i mezzi, quindi ho deciso che probabilmente lo lascio un altro anno a riposo con mellifere invece spontanee, seminate, mm-hmm. quindi con il bollino, che comunque sono tutte specie azotofissatrici. Comunque il terreno si sta rigenerando, cioè autonomamente. E per fortuna, cioè, gli agricoltori sono sul piede di guerra, no? Su quel 4%. Lasciamo stare. Invece sono molto soddisfatto di questa scelta, anche perché lo vedo il terreno, lo sto capendo. Con le tipologie vedo dove c'è più acqua, dove c'è meno acqua, appunto le chiazze. Poi ecco, perché dato che non ci sarà soltanto produzione agricola, anche individuare dove fare, che ne so, pascolo o aree in cui possono pensare altre attività. Ora lasciamolo così. Okay. Ed anche per oggi vi salutiamo, dandovi appuntamento alla prossima Griottosa. sempre su Radio Contado.